di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Secondo appuntamento nel cuore di questa settimana agostana, un'ora di tempo per riascoltare alcune cose che ci hanno accompagnato in questa stagione di tutti i convocati. Sempre Giorgio De Luca, il nostro autore, Giovanni Melchiorre in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Vogliamo ricominciare martedì? Vogliamo ricominciare con un sorriso? Un'intervista a Max Giusti, tra i personaggi che quest'anno sono stati proposti sul palcoscenico di quelli che è il calcio e che si è cimentato in una irresistibile imitazione del nostro Pierluigi Pardo. Quindi cominciamo da qui, Max Giusti. Alla sinistra, meglio l'ala o le cosce di Melissa, ne parleremo dopo qui a Tiki Taka, grande testa, grande puntata. Qui a Tiki Taka tra poco, un grande ospite, un grande calciatore, un ex calciatore, arriva Nino, quello che c'ha paura di sbagliare il calcio di rigore. Nino, quello della leva calcistica. Bravo. Classe 68, esiste veramente lui? Sì, ormai c'ha 47 anni, fa il portantino qui a Milano, li guarda, si è dato tra l'altro una bella pippa, diciamo. Sì, una grande carriera. Ancora un po' paura di dare il calcio di rigore, avremo ospite anche il sole, questo sole che batte, sole sì, che batte sui campi sì, di Pollone, una grande polemica, il gol è partita, tu la conosci, grande polemica. Ah, il sole, polemica, il sole che batte, c'è, che ospite. Certo, il sole, grande polemica per il fatto che il sole batte, subito da Roma avremo Ignazio Marino, zona luci rosse, zona luci giallorosse. Sì, con Nicola, stacco Melissa, di che coscia? 1, 2, 3 a cavallo, 1, 2, 3 a scavallo. Questo è lo sport che ci piace. Ma voi applaudite pure. Lanciatemi una tiki musica. Ho due Pierluigi Pardo in linea. E non so, faccio una un grandissimo casino nella mia testa, già di suo incasinata. Max Giusti, buongiorno. Buongiorno, cosa hai buongiorno. Pardo? Ciao, chi sei? Ciao. Tiki Pierluigi, tiki a tutti. Grande polemica. Dopo ne parliamo, dopo vediamo, ne parliamo. Il re del tiseraggio, Pierluigi Pardo. La scuola di Brachino, si è sentita, tra poco, tra poco. Adesso Pardo, a te tocca fare Max Giusti, cioè non so come puoi fare, che ne so io, a me morisco. È uno e 100.000, nessuno no, però 100.000 sicuramente, perché insomma le voci, fra l'altro insomma ieri c'era a un certo punto di questa imitazione c'era un lotito pazzesco, un lotito al telefono che parlava con tutto il mondo, da Sacchi a Obama, una roba eccezionale. È lui che in realtà gli equilibri mondiali dipendono da lotito, secondo me ormai veramente. Se non ci fosse lui a far parlare Mardo che Berlusconi non ci riesce nessuno. Beh, assolutamente, però devo dire che insomma si sta bene nei panni di Pardo, mi sono divertito come un cinghiale in amore ieri pomeriggio. Io sono onorato, proprio in questi casi qui bisogna solo ringraziare, perché a parte vabbè, insomma c'è anche, se vuoi, un elemento no, di una roba su Mediaset che va con la Rai, questo insomma dimostra poi il fatto che c'è un bellissimo rapporto, ma insomma per me è un onore, Max è un mito, un talento, fra l'altro insomma adesso lo vado a vedere a teatro. Andiamo? Andiamo 2015 personaggi. Sali su, facciamo un pezzo di Ghipardo, andiamo sabato senza alcun dubbio. Ma poi ne parliamo di questo, poi parliamo dello spettacolo, parliamo dopo, poi ne parliamo. E poi ne parliamo, ti gnocca. Mi fa piacere, che ti devo dire, sono onorato, ieri mi ha chiamato per dirmelo prima, stavo andando a Firenze a quel punto. Sì, perché non sapevo, cioè ti spiego, è andata tutta così, ero per fare la promozione a quelli che il calcio, no? Allora eravamo con Nicola e mi fa, sai che mi farebbe morire da ridere se facessimo Pardo, no? Ha detto dai, andiamo a fare, ma dai fammi Pardo, faccio Manico, ma quando lo faccio? Non faccio, poi è una cosa nuova, sai, non è che lavoro lì, ero ospite. Allora però la cosa, la sfida mi è piaciuta e non ti ho detto niente prima, perché poi sabato sono arrivato lì, ho fatto la prova del trucco, ho provato a farlo, ho detto ok, funziona, allora lì ti ho chiamato, eccolo, ci facciamo, straordinario. Senti, Max, intanto sì, ci vedi sopra, perché a tua Roma, ciao. Vabbè, che vogliamo, vabbè, mo subito così. Beh, subito grande così. Grande polemica. No, grande polemica. Parliamo, stasera Tiki Taka, ne parliamo. Grandi ospiti. Tiki Taka 12 per tutte le ospiti. Poi vi racconto come nascono queste cose. Beh, la mia Roma sembra, la mia Roma è incredibile. Prima del Bayer era una cosa, dopo il Bayer è un'altra. Non lo so, io se mi avessero detto che giocavamo col Feyenoord in Europa League, facevo, tu sei scemo, noi qui siamo in semifinale di Champions fino a fine ottobre, dopodiché non so più che pensare. Non so, forse il Pierluigi, tu che pensi? Io penso, stavo parlando prima, penso che sia, ci sia un calo fisico di energie abbastanza clamoroso, che il mercato sia andato male, anche quello di gennaio secondo me è andato malissimo. Io poi in gala avevo visto col CSKA, non era sto fenomeno anche col CSKA, andare a prendere mi sembrava quasi una copertura, non so, quasi fosse dietro. Non so se è uno scambio tipo Lista Falciani, qualcosa del genere, non vedo altri motivi. No, non lo so neanch'io, nel senso che il giocatore è discreto, è buono, ma non è eccezionale, e soprattutto non è il giocatore pronto, ma questo l'ha riconosciuto anche Sabatini, nel senso che era in Coppa d'Africa. Comunque c'è bisogno di un certo tipo di adattamento al calcio italiano, insomma, al di là di quello che potrà dare, che secondo me comunque non è da buttare via, però non è il giocatore pronto che serviva alla Roma in questo momento. E, insomma, la differenza secondo me è lì, perché come dicevo prima, quando la squadra fatica come in questo momento, un grande finalizzatore ti risolve tanti problemi. Pensa che bello, potevamo prendere destro, mannaggia, cercate di prendere destro invece dato da un'altra parte. Tighi musica dopo, canterò una canzone a Melissa. Ma uno scoop, canterò una canzone a Melissa e ci stai tighi tighi con me, facciamo tighi tighi insieme con Nicola, poi con gli amici. Uno dopo scoop. La allora Pierluigi, sì, fai una domanda a Pardo. Che cosa abbiamo stasera a Tiki Taka 23-25 Italia 1? Vediamo se lo sai. Allora Tiki Taka, Melissa, abbiamo Melissa, subito Franco Ordine. No, c'è. Mughini c'è. Mughini è un personaggio di fantasia, un hobby che non è realtà, è sempre in collegamento perché ma dai, mondo. Ma dai! Mughini è troppo forte. Poi chi c'hai? Sacco di gnocca, ci sono Edoardo Leo, Luca Argentero, Gene Gnocchi, Clemente Russo, Marco Masini, sembra un po' tipo Fiorello, no? Posso dire una cosa? Ti manca un po' delle mie di gnocca però, No, chi c'hai, come rinforzi? No, vabbè, ma adesso non vedo un po', Francesca Barra che è una giornalista, però è anche una ragazza splendida, poi Martina Paragia che è la conduttrice di X-Style, tifoso del Napoli, e poi basta, poi Melissa e poi basta. Tubini, attacco 12, questo è importante. No, che Tubini, per noi anche la tuta di Ciniglia, non c'è nessun ordine di scuderia. Che bugiardo, bugiardo totale. Max, ma grazie. È vero, bugiardo. Max, ci vediamo a teatro. 2015, allora, personaggi al ciacco. Faccio veramente saluti, dai, adesso ne combineremo di bello, secondo me con Tiki Pardo, veramente mi diverto veramente tanto. E poi devo dire che sai che c'ha? È che Pierluigi è l'unico che c'ha un suo stile, che riesce a fare un programma che secondo me è fatto da chiunque altro farebbe il 30% d'ascolto. Ma puoi fare il mio agente, puoi fare il mio. Sono veramente onorato, non morirà così Tiki Pardo. Io tra l'altro i fan possono venire al teatro Linear for Chuck sabato a Milano, perché ci avremo l'incontro a Teano tra me e Pierluigi, insomma, in quel di Milano, mi sono Roma senza spirito, quindi con tutti, e poi ci avete anche lo Tito, Terence Hill, gli U2, ci stanno tutti, Mughini. Ciao. Grande personaggio di fantasia. Ciao Max, grazie. Ciao. Tutti convocati. Convocati. Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, trionferà.

Ciao Massimo Marianella. Come state? Benissimo, e tu? Beh, dopo un'introduzione così mi fate commuovere. Meno male che siamo in radio, così non vedete che arrossisco. Dove ci porta il calcio? Dove ti porta il calcio? È il titolo del libro che hai appena scritto. Il primo stadio a cui facevi riferimento è uno stadio che non c'è più, che conoscevi bene. È uno stadio che non c'è più e che anche Pier conosce benissimo, perché il cuore di entrambi è abbattuto da quelle parti. Io lo cito nel libro perché comunque fa parte di me, della mia storia, è quasi uno dei motivi per cui poi sono stato fortunato di fare questo mestiere, nel senso che io nel libro racconto, dico, sono andato lì, mio papà mi ha portato via come gatto silvestro quando sta per afferrare il canarino Titti, quindi con le unghie lo tirano per i piedi, lui con le unghie resta attaccato al cemento davanti allo stadio. In quel caso io, e ricordo che dissi, qua ci torno da giornalista. Il giorno che ci sono tornato da giornalista è stato bello aver mantenuto una promessa a papà, a me stesso, è stata una bella emozione. Ma il libro, sai, io mi sono divertito a farlo, è un'idea che ho da tanti anni, da una decina d'anni, diciamo che da 5 ho cominciato a tenere scrupolosamente via biglietti da visita, indicazioni di hotel, ristoranti, cominciare a vedere, poi ad aggiornare anche, non so, come arrivo allo stadio con i mezzi, quindi quelli che sono i prezzi del, non so, le metro, le indicazioni sugli autobus. Ci ho messo tanto a decidermi poi di farlo davvero, ho trovato una ragazza di grande talento che mi ha aiutato a farlo come idea, ci ha aggiunto lei i paragrafi, si chiama Letizia Conte, ci ha aggiunto lei tutti quelli che sono i paragrafi invece di fashion, di moda, di dove andare se magari ho con me la moglie, la fidanzata o mia figlia, dove mandarli se io vado allo stadio. Insomma, abbiamo fatto un percorso di 11 capitali in giro per l'Europa, almeno come questo primo volume, sperando di aiutare tutti quelli che quando poi vado a fare le telecronache, sono sicuro che a Pier accadrà lo stesso, fuori dallo stadio ti dicono, possiamo fare una foto, a proposito, scusi, dove vado? Ma dove vado a comprare la maglia della squadra? Ma dove posso? Ecco, ho racchiuso esperienze di tanti anni in un libro e ci ho messo dentro anche degli aneddoti miei personali che mi hanno legato a quello stadio, a quel ristorante, a quella città, sì. Perché poi anche Mondadori, che l'editore voleva una sorta di autobiografia, allora abbiamo messo insieme tutte le cose e spero sia venuta fuori una cosa carina. Qual è il tuo stadio preferito, il tuo stadio del cuore, Pierluigi? Il mio stadio del cuore, Ivory sicuramente. Tra l'altro mi ricordo una telefonata forse 20 anni fa con Massimo al telefono, nella quale mi raccontava di aver incontrato, credo all'inizio degli anni 80, Kenny Sampson in metropolitana che tornava dalla partita. Bravo Pier! La memoria è forte, insomma. No, io sono, devo dire la verità, sono Old Traffordista, nel senso che io credo che Old Trafford rappresenti, però anche qui poi è molto legata al fatto che ci ho lavorato tanto, che comunque negli anni ho fatto tanto lavoro di adrenalina prima della partita e dopo la partita con Ferguson, quindi poi uno si lega anche alle esperienze che vive. Però devo dire che quello stadio lì, secondo me, rappresenta il punto d'equilibrio fra lo stadio inglese di tipo tradizionale e però anche lo stadio enorme, perché Highbury, comunque, al quale siamo legati, era uno stadio da 39.000 posti, dopo tutte le limitazioni ovviamente per la sicurezza, era uno stadio relativamente piccolo. Anfield, che ovviamente ha una magia clamorosa, Massimo correggimi, che sia sempre sui 40.000, no? Nella sua 44.000, sì, 44.000, mentre Old Trafford è uno stadio che unisce la grandezza, la maestosità di uno stadione con però quell'approccio da salotto veramente di stadi inglesi, quindi ti direi quello. Poi mi piace molto, perché è molto tecnologica, per esempio l'arena of Schalke. Mi chiedo se ci fosse stata, con tutto il rispetto per lo Schalke 04, lì una superpotenza del calcio europeo, che cosa sarebbe diventato quello stadio lì. Non sono un grandissimo amante dell'Emirates e non sono neanche un grandissimo amante dell'Allianz Arena, che sono due stadi bellissimi. Ma io voglio, infatti, io voglio chiedere a entrambi, Pier, io voglio chiedere a entrambi, a te, a Massimo Marianella, voi che comunque avete annusato la storia di Highbury, Old Trafford c'è ancora naturalmente, Anfield c'è ancora, rimaniamo grosso modo in Inghilterra. Voglio chiedervi, dopo il traffico, come vi approcciate invece agli stadi nuovi, alle nuove cattedrali, bellissime, luccicanti, con dentro di tutto, comode? Allora, Massimo Marianella e Pierluigi Pardo, c'era una volta Highbury, adesso c'è l'Emirates. Di Wembley rimangono così dei ricordi stilizzati. Posso andare avanti con Monaco di Baviera o con altri stadi? Come vi rapportate con le nuove arene? Ma Guarda, ti dico la verità, io lo stai chiedendo ad una persona purtroppo romantica, e quindi io sono molto legato ai vecchi stadi, se devo andare a vedere, ma in tutto il mondo ti potrei fare lo stesso esempio degli stadi americani, cioè io rimpiango che non ci sia più il vecchio Yankee Stadium. Certo. Io capisco e sono anche, quindi sono un po' dissociato con me stesso in questo senso, nel senso che io sono uno di quelli che dice in Italia il vero problema è che non ci sono gli stadi nuovi, non possiamo tenere il passo agonistico ed economico con il mondo europeo calcistico che cresce, perché loro hanno gli stadi e da noi ce l'ha soltanto la Juventus, e quindi il calcio italiano deve crescere in quel senso lì. Poi però personalmente rimpiango i vecchi stadi, quindi fatico a risponderti in maniera coerente a questa domanda. Io credo che la bellezza, ieri in conferenza stampa quando abbiamo presentato il libro, c'era con me Walter Veltroni, c'era Inzaghi, c'era Mancini, abbiamo parlato un pochino anche di questo, abbiamo detto di quanto il mondo va avanti, gli stadi vadano avanti, però poi tutti eravamo concordi su un fatto che quali sono gli stadi più belli? Quelli che ti comunicano il senso della storia, okay. E la storia la passi con gli anni, quindi il nuovo Wembley è un bello stadio, ci hanno già giocato due finali di Coppa dei Campioni, ci hanno giocato un'Olimpiade, ci hanno giocato dal 2007 le finali di FA Cup, Community Shield, il finale di Coppa di Lega, però non potrà mai avere i 77 anni di storia di quello precedente. Io sono d'accordo con Pierre, per esempio a me l'Emirates, che è bellissimo come stadio, proprio non riesce a piacermi, perché è talmente forte lo stacco con Highbury che quelle luci soffuse all'interno, quel ristorante a due stelle Michelin, quelle scale mobili, io voglio vedere la partita, però poi so che le partite diventano belle perché se il club con le scale mobili, con le luci, con i ristoranti ha i soldi, compra i giocatori per poi le partite diventano. Tra 20 anni l'Emirates magari sarà un momento, no? E, beh, devo dire che io in questo sono rispetto a Massimo un po' diverso, Massimo, per non dire niente di clamoroso, è ancora abbastanza arrabbiato perché l'Arsenal a un certo punto ha cambiato il logo invertendo il verso del cartone, vero, se non sbaglia, no? Togliendo Vittoria Concordia Crescit, non lo tornerò mai, certo. Io diciamo da questo punto di vista penso che in realtà si debba trovare un equilibrio, e appunto ti dico, Old Trafford per me è un ottimo punto di mezzo, devo dire che anche Stamford Bridge si sta costruendo una storia da questo punto di vista, forse perché mentre la storia del Chelsea fino a 20 anni fa era una storia minore, in realtà lo stadio, per come lo stiamo vedendo adesso, sta diventando un monumento, no? Lo stadio del Chelsea, e quindi diciamo che sta al Chelsea come il vecchio Wembley sta alla vecchia nazionale inglese, o Anfield sta al vecchio Liverpool di quando vinceva. È chiaro che insomma ci vuole un po' di tempo per fare la storia, c'è un elemento oggettivo comunque di comodità che non si può sottovalutare, perché poi noi, oltre a fare diciamo gli appassionati di calcio, lavoriamo anche in televisione, c'è questa vecchia leggenda che la televisione sia contro gli stadi, e invece proprio la realtà degli sono balle, l'abbiamo detto molte volte, gli altri paesi dice il contrario, ma magari ci fossero in Italia 20 squadre di Serie A con 20 stadi di proprietà comodi, le partite sarebbero piene anche se c'era diretta televisiva, come non c'è dubbio, come succede per la Juventus, come succede per la Juventus, abbonarti tutto un mese a una piattaforma TV ti costa 40 euro, e poi ti costa invece 70-80 euro il biglietto di una singola partita in un posto dove se piove ti bagni, di che stiamo parlando? Ci sta che qualcuno, nonostante la follia meravigliosa del calcio, del vedere la partita allo stadio, dei riti della partita, ci sta che qualcuno decida, sai che c'è, piove, me ne rimango a casa. Sì. Questo però non è colpa delle televisioni, anzi con i soldi delle televisioni le società dovrebbero investire sulle infrastrutture. Torniamo al discorso dei giorni scorsi, proviamo con stadi accessibili, non delle fogne come spesso abbiamo adesso, via i tornelli, via le tessere tifose, tutti questi, responsabilità individuale, tanto ormai in stadi mediamente tecnologici c'è una possibilità di controllo totale, e quindi magari non avremo più quattro gatti cattivi nei nostri stadi, ma avremo degli stadi pieni come alla Juventus succede tutte le domeniche. Tutti convocati. Tutti convocati. Fritti, Scampi e Chianti, Calamari, Lucca, sei per me Cannoloni, Lucatoni, Pepperoni, Luca sei per me numero uno. Stand by for action. Dentro Toni, controllo e cross sul secondo palo, Christodoulopoulos la prende, poi Toni, Verona in vantaggio. vantaggio dopo 10 minuti. Luca Toni. Parte l'islandese, mette il cross, deviazione. Mesto si fa sorprendere ancora da Juanito Gomez, circondato da maglie bianche, riesce a far arrivare il pallone a Toni. Gran numero, Toni in area, il pallone passa e Toni lo mette dentro, il Verona in vantaggio al settimo minuto, sesto gol nelle ultime sei per Toni. Un grande inizio del Verona, il Napoli è già sotto. C'era lo scatto di Jankovic, in mezzo c'è Toni, Jankovic controlla, chiama palla a Toni, Jankovic lo va a servire e poi la conclusione di Toni ed è un grande gol al 17esimo minuto, 3-0, doppietta di un fantastico Luca Toni. Sereno, ci proverò a vincere perché sarebbe una bella soddisfazione per me, per anche per la squadra dei miei compagni, perché se ho fatto 21 gol il merito loro. Sarebbe bello, mai nessuno del Verona ci è riuscito, speriamo, vediamo un po'. Allora, Pardo è arrivato a Varsavia, io credo, per giusto? Sì, tutto a posto. Pier, abbiamo Bosco Jankovic, Bosco Jankovic da Verona per parlare in terza persona di un suo amico, Luca Toni. Ciao Bosco. Ciao, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Pier, lasciate la prima domanda, Pardo. No, beh, vabbè, insomma, la prima domanda è... Beh, raccontacelo da vicino, so che è strana questa cosa, no? Perché è strana, sì. Intervistando perché è un grande... Bosco è un grande giocatore che ha avuto una stagione sfigatissima. Certo, sfigatissima. Certo. All'interno di una stagione comunque positiva come quella del Verona, però insomma... Nessuno poteva prevedere questo qua, quindi raccontacelo da vicino, dici una cosa che nessuno sa di Luca Toni. Cosa? Non ho capito, sento male. Dici una cosa che nessuno sa di Luca Toni, Bosco. Non posso dirlo. No, sto scherzando, ma comunque si parla di una ottima persona, di una persona veramente... Ho avuto pochi compagni come lui, come in campo, anche fuori dal campo, è proprio... proprio numero uno. Anche quello che sta facendo adesso secondo me non è un caso, perché si parla di un ottimo giocatore che sta molto molto bene fisicamente. E secondo me se rimane ancora prossimo anno, speriamo che rimane, che fa ancora tanti tanti gol per Verona. Sì, ma per arrivare a quel punto lì, a quell'età lì, oggi compie 38 anni, è questione di allenamento, è questione di mentalità o di cos'altro? Ma prima devo fare auguri anche per il suo compleanno. Sì. Ma secondo me lui è uno che si è allenato sempre, che non è mai saltato un allenamento, allora significa che fisicamente c'è ancora. L'anno scorso non è saltato una partita, mi sembra, neanche questo anno per infortunio, allora si parla di un professionista e secondo me dipende solo da lui cosa farà prossimo anno, perché secondo me, come lo vedo io, durante la settimana sta molto molto bene. Senti Bosco, tu hai fatto, lo dicevo prima, hai avuto una stagione sfigata. No, un po' perché... stagione particolare, mi sono rotto il perone di Maleolo. Esatto. Ero tre mesi fuori, poi dopo quando squadra aveva bisogno di rinforzi io ci sono rientrato, ho fatto anche quello che dovevo farlo. Anche io. Quali sono le tue idee sul futuro? Io non lo so, non abbiamo ancora parlato con Verona, perché sappiamo la tutta situazione qua, che non si sa ancora tante cose, però in questi giorni dobbiamo sapere più o meno qualcosina per il futuro. Sì, ma tu resteresti? Aspetto, io ripeto, qua sto bene, sono felice qua, è un'ottima piazza, un'ottima città con ottimi tifosi, e perché non stare ancora un po', perché certo. Ripeto, sto bene qua. Pier? No, dico, a proposito di ottime piazze con ottimi tifosi, mi dici qualcosa sul Genoa, nel senso che fa male pensare che non ci sia questa licenza che invece potrebbe, insomma, rappresentare il coronamento. Sta facendo una stagione incredibile la tua ex squadra. Sì, ma anche Genova secondo me sono due squadre con due ottime tifoserie, hanno fatto la stagione più o meno uguale come quella che abbiamo fatto noi con 2009, mi sembra, con Diego Milito, Thiago Motta. Esatto. Noi eravamo, mi sembra, quarti, pari punti con Fiorentina, e purtroppo mancava poco per andare a Champions League. Siamo andati a Coppa UEFA, anche loro questo anno hanno fatto molto bene. Ho visto una gran Genova con, ripeto, con un ottimo allenatore che conosco molto bene, che mi è impressionata molto quella partita ultima, quella che hanno fatto contro l'Inter. Io non lo so, per questi ragazzi veramente corrono doppio degli altri, si vede che stanno molto bene, e mi dispiace se il prossimo anno non gioca in Coppa UEFA per quella cosa di licenza. Mi dispiace molto, perché sono ragazzi veramente forti là. C'è. Grande campionato. Grazie Bosco. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Tutti convocati. Per me è un grande piacere fare due chiacchiere, su altro anche, con Francesco Acerbi, difensore del Sassuolo. Ciao Francesco. Buonasera a tutti, ciao. Ciao, e qui partiamo invece da quanto è scritto. Tutto bene, la mia doppia vittoria sul tumore. Allora, adesso mi spieghi, dalla malattia che ti ha cambiato la vita alla nazionale di Conte. Mi spieghi questo percorso, so che è lungo, riesci a riassumerlo? No, mi ha cambiato la vita ovviamente in meglio e mi sono, ripeto, mi sono venute tutte le ambizioni, i sogni, la voglia di giocare. Da lì ho stretto i denti, mi sono tirato sulle maniche, ho cominciato a fare professionista vero e da lì poi è successo tutto il resto, con la convocazione e via dicendo. Ascoltami, ti faccio una domanda magari difficile, però io voglio prescindere da tutti i discorsi collaterali che poi hanno portato alla rivisitazione degli Albi d'Oro eccetera, però nel tuo percorso ti è capitato di pensare a Lance Armstrong, cioè uno che ha avuto la malattia che ha avuto e che poi lasciamo stare tutto il resto, No, lasciamo stare tutto il resto, però ha vinto in bicicletta sette Tour de France. Ti è capitato pensarci? Sì, ho letto anche quasi tutto il suo libro, anche il libro, e mi ha dato un sacco di ispirazione, perché comunque lui aveva cose peggiori delle mie e ha lottato come leone, quindi era il mio peso di ispirazione, e ci pensavo quasi tutti i giorni quando ero l'ospedale, quindi è stato un punto di riferimento. Sì, perché adesso tutti, per tutti è il diavolo, però io non sono d'accordo con questa etichetta, con questa definizione, anche perché poi molte cose Armstrong, con tutti gli errori che ha fatto, molte cose le ha messe in pratica anche dal punto di vista dell'aiuto di quelli che avevano una malattia come lui, quindi da questo punto di vista lascerei stare tutto il resto, vero? Vero? Sì, quel punto è stato, ma neanche io penso, è stato veramente grande, quindi può essere solo d'aiuto una cosa del genere. Francesco, a questo punto della tua vita e della tua carriera, quali obiettivi hai? Ho un po' di obiettivi, innanzitutto io adesso guardo giorno per giorno, non penso solo a fare bene giorno per giorno, a stare bene e a fare il massimo per il mio lavoro, che è il calcio, la mia passione. Poi si vedrà, perché se lavori bene, impegno e voglia di migliorarti, dopo le cose verranno tutte da sé. Poi adesso penso a finire bene l'anno e poi... Beh, un grande campionato, poi, è andata bene, sì, è andata bene, dobbiamo fare qualcosa in più secondo me e secondo un po' tutti, ma però è il nostro obiettivo, comunque la salvezza tranquilla, e ce l'abbiamo riusciti. Senti, l'occasione, tra le cose che pensi, hai ancora voglia di un'occasione in una grande squadra? L'hai avuta, non sì, bene con il Milan, ma credo qua passata. No. Ovvio, sì, quello ovviamente non la sprecherei, ma non perché bisogna dire non la sprecherei, perché ho la testa giusta, con il Milan mi sono un po' seduto, ero un po' arrivato, come si vuol dire, quindi non me la sono giocata assolutamente bene, però sono passaggi della vita che alcuni bisogna fare, altri no, a me è toccato farlo e va bene così. Aiutano anche a crescere. La stagione del Milan quest'anno, d'altra parte, diciamo un disastro. Senza, tu sei, so che sei milanista, un disastro. Sì, non è stata delle migliori, ma sicuramente si rifaranno nei prossimi anni. Speriamo. Sono periodi, secondo me sono periodi di grandi squadre, sono periodi dove fa del dispiacere di una grande squadra che ha vinto praticamente tutto e negli ultimi anni e essere così un po' dispiace, però sicuramente si spera che si rifarà. Senti, idee su Real Juventus? Io spero che passi ovviamente la Juventus, solo che era difficile, tanto anche sono abituato a giocare sul suo campo. Molto difficile, io ho dimostrato comunque di esserci con la testa soprattutto, e secondo me partono 50-50. Come poi speriamo sia una bella partita, più che altro poi come va ecco. Un'ultima cosa Francesco, domanda invece da difensore: ti trovi a giocare contro Messi, Suarez, Neymar? Prima ho letto qualche numero, che cosa fai? Il segno della croce o provi a contrastarli? Lì sono grandi fenomeni, campioni, quindi speri che non sia una giornata. Non c'è tanto modo di fermarli, cosa dici? No, si lascia 3 contro 3, 4 contro 3 con i difensori, i loro atleti sicuramente hanno vita facile, però sono forti, quindi sono campioni e i numeri parlano chiaro, quindi bisogna essere in campo, ma è molto difficile fermarli. Grazie Francesco, bocca al lupo. Grazie a te, crepi lupo, grazie anche a te. Ciao, ciao Francesco Acerbi, tutto bene? La mia doppia vittoria sul tumore, vi consiglio questa lettura.